tempo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato e... Ciao. Oh, Mascotte, benvenuta! Ma come mai sei qua oggi, Mascotte? Stai bene? Tutto a posto? Sì, credo di sì. Ah, molto bene. Perché oggi in effetti è una puntata almeno che... Tre. Ah, non sai se stai bene, Mascotte? Lo so, non lo so, vabbè, ok. Comunque, volevo dire che oggi è la terza e ultima puntata dove noi ascolteremo i bimbi delle Federzoni, degli C5 di Bologna, che oltretutto sono bimbi sì! che tu conosci, giusto? Alcuni sì, alcuni no, alcuni sì. Ok, e in effetti questi bimbi hanno fatto il laboratorio di Dedicato con me in classe e quindi noi staff di Dedicato ci siamo spostati e siamo andati direttamente nella loro scuola a fare un sacco di cose meravigliose, perché con me hanno fatto musica io e teatro. Non c'ero, però. Eh no, tu non c'eri perché non frequenti quella scuola. Ero a scuola. Se eri a casa ti piacerebbe. Tu eri a scuola mentre loro erano a scuola con me. Pensa un po' com'è buffa la vita. Comunque, detto ciò, abbiamo realizzato un sacco di materiale meraviglioso. Quindi da canzoni, storie inventate da loro su sì! delle tematiche precise, perché comunque i bimbi hanno avuto delle indicazioni, non erano proprio liberi di fare tutto ciò che volevano, se no insomma non sarebbe stato un laboratorio, ecco, come sì, dire, certo. Ma un momento di ricreazione. E quindi abbiamo oggi gli ultimi materiali che ci fanno ascoltare questi bimbi delle quinte delle sì. Federzoni. Hanno... Mangio il finocchio. Cosa fai? Mangi? Il finocchio. Mangi il finocchio. Eh beh, questo è un messaggio sano, mangiare verdure fa sempre bene, Mascotte, ma non c'entra assolutamente nulla con il cioccolato sopra. Vabbè, questo è meno sano, ma comunque non c'entra assolutamente nulla con quello che stiamo dicendo. Mascotte, ha qualcosa da dire inerente a questo o andiamo ad ascoltare i bambini delle Federzoni? Ascoltiamo i bambini mentre mangio il finocchio. Ah, buon appetito, Mascotte, in effetti l'orario è quello. Buon appetito. Ciao. E buon ascolto, andiamo ad ascoltare due delle storie dei bimbi delle quinte delle Federzoni. Il titolo è Nulla senza forza. Un giorno il principe Adam sente parlare di un mostro e lo vuole sconfiggere. Cosa c'è? Un mostro in una grotta? Allora vado a vedere. Non riuscirai mai a sconfiggermi. Il mostro aveva ragione. Allora Adam va da Aslan. Aslan, c'è un mostro. Vai a sconfiggerlo. Non ci credo, non è vero. Aslan va dal mostro. Non mi sconfiggerai. Il mostro aveva ragione. Ryan, vai a vedere, c'è un mostro. Non ci credo, ma andrò a vedere. Ora ti faccio vedere io. Ryan torna malconcio. Alamin, c'è un mostro. Non sono molto convinto, ma andrò a vedere. Un altro? Vai via. Omar, vai a vedere. Cos'è? Non c'è questo mostro. Il mostro mette KO Omar. Allora i fratelli uniscono i loro poteri e sconfiggono il mostro, ma alla fine diventa loro amico. Fine. Oh, bravi! Molto bene, quindi è proprio una storia sull'amicizia questa. Ci dite i vostri nomi? Carlo. Ryan. Raslan. Omar. Alamin! Adam. Ok, ragazzi, perché avete scritto questa storia? Com'è nata? Che pensiero avete avuto nello scrivere? Ci stavi dando questo testo, infatti, l'altra volta, e Carla ha subito deciso di fare questa storia. Allora noi abbiamo detto va bene, ha iniziato a scrivere e poi l'avevamo registrato, solo che te ci hai detto lo dobbiamo modificare ed esercitarci sì. ancora di più. E poi avevamo anche recitato davanti ai nostri compagni, quindi poi questa volta abbiamo modificato un pochino il testo e appunto l'abbiamo registrato, quindi alla fine abbiamo avuto una grande soddisfazione dopo tante prove e prove su prove. Bravissimi! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Il titolo è Il ritorno sulla terra. C'era una volta un ragazzino di nome Billy che era intrappolato in un'astronave con Miko, un astronauta. Billy e Miko volevano tornare a casa perché erano intrappolati sul pianeta XFR_12518, senza speranze. Un giorno però incontrarono tre alieni. «Ciao terrestri, vi vogliamo aiutare», dissero gli alieni. «Ah!» gridò Billy. «Sono innocui», disse Miko. «Vogliamo riparare la vostra astronave». Quindi si misero al lavoro. Presero una roccia fluorescente dal suolo. La misero nel generatore dell'astronave e si accese l'astronave. «Ciao, ciao!» «Alieni», disse Billy. «Grazie per averci aiutato a riparare l'astronave». Però superarono il pianeta XZPX_2ZPX_70 e la stella _1. Finalmente arrivarono nel nostro sistema solare. Superarono le gelide temperature di Nettuno, ma quando arrivarono a Saturno, la sabbia e il ghiaccio fermarono l'astronave. Si provarono a fermare nell'unico anello solido di Saturno, cioè Aslante. «Ah, ma!» gridò Miko. «Cambiare l'ala sinistra. Andrò io a trovare il materiale occorrente», disse Billy, e si mise in cammino. Saltò dentro Saturno e atterrò su un pezzo di terra e trovò del ferro per l'ala. «Ciao Billy!» gridò Miko. «Hai trovato quello che ti ho chiesto?» «Sì», rispose Billy. Ripararono l'ala e partirono per la terra. Atterrarono sulla terra. «Siamo tornati a casa!» e vissero felici e contenti. Bravi ragazzi, bene. Allora, intanto ci dite i vostri nomi? Maria. Io Merlin. Alessandro. Emilio. Octavian. Ok, e come è nata questa storia? È sempre a tema fantascientifico, come i vostri compagni di classe, ma chi è stato a iniziare a scriverla? Io. Ok, Maria. Da dove ti è nata questa idea? Da il primo atterraggio sulla Luna. Ah, ok. Perché ho pensato che i primi astronauti volevano tornare a casa dalla Luna e quindi era importante poterlo fare, certo. Hanno percorso un po' di strada. Brava, brava, bene. E poi tutti i tuoi compagni ti hanno aiutato a scriverla, ovviamente. Bravi, grazie ragazzi. Ciao! Ciao! Ciao. Ma bravissimi, bentornati in studio. Mascotte, abbiamo ascoltato la quinta E e la quinta F delle scuole Federzoni. Meraviglioso! Con le loro storie, le hanno inventate loro e poi insomma le abbiamo registrate anche, quindi vero, hanno imparato. Anch'io invento un sacco di storie, solo che me le invento in mente però non le scrivo. E forse sarebbe meglio scriverle oppure registrarle subito come hanno fatto loro. Loro le hanno anche scritte in effetti, perché prima abbiamo elaborato i testi. Poi abbiamo messo in mezzo questa storia del parlare uno dopo l'altro e quindi imparare anche a gestire il microfono, perché non è facile se uno non l'ha mai fatto. Adesso Mascotte, tu sei un'esperta di radio, ormai sai come si gestiscono i microfoni e come si lavora, no? In radio in un certo modo, anche se per noi è un gioco, vero? Vero. E anche per i bimbi delle Federzoni è stato un gioco, però ho dovuto insegnargli che appunto bisogna parlare in un microfono, come si deve parlare in un microfono, eccetera, eccetera. E Mascotte, cosa facciamo? Mandiamo un brano? Penso di sì. Ok, ti vedo un po' mogia oggi, mi aspetto grandi perché cose. Perché ho fame. Vabbè, ma Mascotte, non è che la fame ci può un attimo bloccare su tutto quello che facciamo. La fame la teniamo, sei grande, no Mascotte? No. No, sei piccola. Ho solo 3 anni. Ah, vabbè, sì, magari. Ne abbiamo già 10. Ciao, Mascotte. Mando Ciao. Un brano, lo mando. Sì. Lo mando? Sì. Molto bene. Che brano mando, Mascotte? Che ne so io. Ah, perfetto. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. industry. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will. Bentornati in studio con We Will Rock You, i Queen, e io mi visualizzo i bimbi delle Federzoni che stanno tenendo il tempo ballando e cantando questa canzone, quindi mi rende molto felice averla mandata, perché so cosa sta succedendo in classe mentre ci ascoltano. Quindi grazie ai bimbi delle Federzoni anche per le loro storie meravigliose. Adesso vi facciamo ascoltare anche la terza e ultima storia di oggi, che è della quinta G, e invece partiremo poi con i nostri canti. Quindi la quinta F ci presenterà il brano che canta da sola, poi alla fine avremo un brano invece che tutte e tre le quinte canteranno insieme, e c'è insomma questa piccola sorpresa da parte di tutti, anche dei bimbi che l'hanno cantata, perché quando tante persone creano un coro diventa un'esperienza veramente meravigliosa. Quindi gli diciamo già bravi in anticipo, perché io so come hanno cantato, e anche abbiamo i nostri due chitarristi che nella scorsa puntata ci hanno fatto ascoltare Il Gatto e la Volpe, registrato dalla quinta E, questa volta accompagneranno il coro delle tre quinte. Quindi grandi chitarristi, sono ovviamente dei bimbi della quinta E che sanno suonare la chitarra, sono all'inizio di questo studio musicale e hanno accompagnato i loro compagni. Però prima di arrivare ad ascoltare la quinta G e la quinta F con storie e canti, vi riepilogo brevemente perché siamo qua, perché chi non ha sentito le puntate precedenti non sa che questo laboratorio è voluto dall'associazione Totem Lab, che è una PS che nasce nel novembre 2020 e che si occupa di educazione e di cultura alla pace. L'associazione promuove le buone pratiche per il contrasto di ogni forma di intolleranza e discriminazione. Diciamo che uno dei suoi obiettivi è proprio quello di dare consapevolezza alla vita comunitaria urbana, anche in ottica di potenziamento del senso civico e di migliorare l'autoconsapevolezza. Quindi insomma un percorso importantissimo quello che fa la PS Totem Lab, e ringraziamo per averci voluto a fare questi laboratori nelle scuole con i bambini. A breve arriverà il prossimo laboratorio, sempre con l'Istituto Comprensivo 5, con i ragazzi un po' più grandi delle scuole medie, la scuola secondaria inferiore Testoni Fioravanti, quindi aspettateci nelle nostre puntate con i nostri ragazzi. Adesso ascoltiamo la quinta G con la ultima storia di oggi e la quinta F con i primi canti. Il libro di Celeste. Celeste è una bambina che adorava i libri, adorava così tanto che andava ogni giorno in biblioteca per leggere i libri storici, il suo genere preferito. Un giorno stava leggendo un libro che riguardava la civiltà egizia. Era così coinvolta nella storia che ad un certo punto il libro la risucchiò. Si trova sulla riva del fiume. Miro il libro aveva risucchiata nella storia, doveva assolutamente tornare a casa. Visto che era arrivata lì attraverso un libro, doveva tornare alla biblioteca attraversandone un'altra, che doveva riguardare l'anno, il luogo, il giorno e il mese in cui voleva tornare. Lì non c'erano libri, quindi scelse di scriverlo lei, rubando un foglio di papiro e una piuma d'inchiostro dall'ufficio di uno scriba. Di lì stavano passando il faraone e le sue guardie, che la rapirono visto che non la conoscevano. Ma come avrebbe potuto scrivere in carcere? In prigione ebbe un'idea. Prese un sasso e iniziò a scrivere su un muro, e una volta finito si concentrò così tanto che venne risucchiata, tornando a casa sana e salva. Bravi, bene. Allora, come mai avete scritto questa storia? Abbiamo scelto questa storia per il fatto che il libro è già una fonte di memoria e che possono ricordare fatti personali, ma anche riguardo le persone in generale. Ok, va bene. Allora, ci dite i vostri nomi, come ti chiami? Soia Cetie. Ryan. Enrico. Bruno. Vanessa. Grazie bimbi. Ciao. Ciao. Siamo in quinta F. Ciao bimbi. Ciao. E come siete mogi? Riproviamo. Ciao bimbi. Ciao. Ah, molto meglio, ok. Allora, qualcuno ha qualcosa da dire? Siamo all'ultimo incontro di questo laboratorio di teatro, musica, radio. Che è stato molto bello e molto interessante. Grazie, come ti chiami? Penelope. Ok, qualcun altro? Che è stata una bella esperienza e speriamo che risucceda. Come ti chiami? Maria. Allora, che è stato molto divertente sicuramente cantare, fare anche molti giochi insieme. Ok, giochi teatrali, molto bene. A me è piaciuto anche molto scrivere la storia per farla insieme al gruppo che abbiamo creato insieme. Ok, perfetto, perché in effetti abbiamo inventato storie, abbiamo cantato canzoni, le abbiamo recitate. Io mi è piaciuto tutto perché abbiamo lavorato in gruppo tutti quanti. Ok, come ti chiami? Ragad. A me è piaciuto quando abbiamo inventato la storia e recitato e quando abbiamo fatto i giochi in gruppo. Come ti chiami? Aurora. A me mi è piaciuto quasi tutto, ma particolarmente quello della storia e che lo doveva rappresentare. Ok, come ti chiami? Alice. Ok, quindi più il teatro che la musica. È stato bello che abbiamo cantato le canzoni e siamo diventati un gruppo più unito. Perfetto, è vero questo. Cantare in coro ci si unisce. Bene ragazzi, grazie alla quinta F. Adesso andiamo a cantare l'ultima canzone. Come si intitola? Il congiuntivo. Oggigiorno chi corteggia incontra sempre più difficoltà. Coi verbi al congiuntivo, quindi è tempo di riaprire il manuale di grammatica, che è molto educativo. Gerundio imperativo e infinito indicativo, molti tempi e molte coniugazioni, ma il congiuntivo ruolo distintivo e si usa per che non sono reali, è relativo a ciò che è soggettivo, è a differenza di altri modi verbali, e adesso che lo sai anche tu, non lo sbagli più. Caso che il periodo sia della tipologia dell'irrealtà, si sa, ci vuole il congiuntivo. Se tu avessi usato il congiuntivo trabassato, o lei non sarebbe andata poi male. Condizionale, segui la consecuzione. Temporum, il congiuntivo al ruolo distintivo si usa per eventi che non sono reali. A ciò che è soggettivo e a differenza di altri modi verbali, il congiuntivo, come ti dicevo, si usa in questo tipo di costrutto sintattico. Allora, questa la dedichiamo direttamente a Ligabue e a tutta la sua band. E anche a Federico Poggipollini. E anche a Federico Poggipollini, il nostro capitano. E anche a Ivano Zanotti, the big drummer. Concentration. Thank you. studio abbiamo ascoltato la quinta G con Ligabue, e un pezzettino, perché comunque la cosa bella di questi laboratori sono proprio quello, sono il correggere gli errori, l'andare avanti, il poter tagliare alcune cose. Non abbiamo il tempo, giustamente, in questa puntata di poter mandare tutto quanto, e quindi abbiamo dovuto selezionare un po' di cose. Ma bravissimi tutti i bimbi delle Federzoni! Mascotte, che dire? Andiamo avanti, adesso ascoltiamo un po' di saluti e impressioni sul laboratorio da parte di questi bimbi. Abbiamo la quinta E e la quinta G che hanno un po' da dire di cose. E poi mandiamo finalmente il brano finale, quel coro di cui ho parlato prima, dove ci sono tutte e tre le classi insieme, i nostri due chitarristi special guest. E Mascotte, la prossima volta ti vogliamo accantare con loro, quindi non niente. Posso. Non puoi, cambiamo la scuola e vieni a cantare con loro? No, secondo me si può fare tutto con la musica. Mascotte, sì. Ti piace la canzone Spazio Tempo di Francesco Gabbani? Sì. È perché è proprio la canzone che canteranno tutte e tre le quinte delle Federzoni insieme. Sì. È un coro, capito? Abbiamo fatto il coro di questa canzone, fantastico, accompagnato da due chitarristi. Bello. Molto bene, ok, quindi ora andiamo ad ascoltare gli ultimi contributi delle nostre quinte. Ciao Mascotte, buon Ciao. Appetito. Sì, buon appetito Mascotte. Ciao. Ciao o buon appetito? Entrambi. Entrambi, ok. Ciao, buon appetito. Allora ragazzi, qualcuno ha qualcosa da dire della quinta E? Vai. È stata un'esperienza stupenda. Grazie. Come ti chiami? Alla È stato bellissimo, vorrei rifarlo. E ti chiami? Corina. Ok. Dimmi qualcosa. Che Erika è bravissima a fare questi laboratori, mica Omaia. Ok, vai. Siamo una squadra eccellente e mi chiamo Raslen. Ho imparato a cantare bene e mi chiamo Gilad. Radio Città Fucicola migliore e mi chiamo Martino, sono uno dei due chitarristi. Ok, chitarrista, è vero, Radio Città Fucicola migliore, hai ragione, bravo. Dobbiamo continuare così perché siamo una grande squadra. Mi chiamo Carlo Micheletti e anch'io sono un chitarrista. Sei l'altro chitarrista, mi sembra giusto, Carlo. Sì, siete in quinta, quindi la squadra si scomporrà un pochettino, ma in realtà rimarrete sempre uniti da questa esperienza eccezionale delle elementari, giusto? Siete un gruppo bellissimo, grazie anche alle vostre maestre. Qualcun altro qualcosa da dire? Bravissimi! Bravi! Oh, bravi, ciao! Yeah.